magistrali Highway Iveco mi ricorda l'appuntamento con Uomini e Camion su Radio 1. A tra poco. Ore 23. No, ho una fior di liquirizia Ambrosoli. Ambrosoli, non solite caramelle. Rai, GR1. Buonasera da Simone Grossi, torno con più soddisfazione e fiducia, così il Premier Letta commentando in conferenza stampa l'esito del suo incontro con il presidente americano Obama alla Casa Bianca. Sentiamo l'inviato Gavino Moretti.